Fai vedere cosa hai imparato, forza. Allora, sì. Paolo Vita, un uomo che è un contratto. Non è possibile, un uomo chiamato a contratto. Sì, sì. Paolo Vita, un uomo chiamato a contratto. Stavate chiedendo di me. No, stavate parlando di me, ma è scemo. Allora, allora, l'ultima volta. Paolo Vita, un uomo chiamato a contratto. Stavate parlando di me. Io rinuncerei.